vero che Mario Balotelli a gennaio arriva alla Juve? Perché sinceramente a me da juventino, anche se me lo regalavano, non me lo prendevo. Da questo momento, lo dico quasi quasi credendoci, il Palermo vincerà lo scudetto. Volevo sollevare un attimo il livello del colloquio dopo aver sentito Cassano, perché veramente non si può sentire. Tutti convocati di Carlo Genta. Sentite anche voi frenire le cicale? Ma io non ci credo. Franco Piantini, autore di questo programma, Fabio Cantadore in regia. La cicala titola oggi Repubblica riferendosi alla Juventus e io, ripeto, ci credo poco, perché mi viene in mente un altro parallelo che vi farò più tardi, un parallelo ciclistico. Comunque, crediamoci pure, non so voi, 800240024, perché siete tutti convocati come sempre, questo è il vostro libero spazio sportivo. In questo gennaio grigio, piovoso e infinito, l'azzurro è solo quello delle maglie del Napoli e della Lazio, che ci regalano una speranza di campionato. Poi leggiamo anche i numeri. Nelle prime 10 partite la Juventus ha fatto 28 punti, nelle altre 10 ne ha fatti 17 e sarebbe quarta in classifica in questo intertempo, con la Lazio in testa a 23, Napoli 19, Milan e Juventus 17, Udinese 16, poi ci sono altri numeri, 7 tiri in porta per fare un gol, e dunque la Juventus sarebbe la cicala. Bianca quasi in zona tiro e lui ce l'ha, poi cerca ancora Icardi, prende la mira con il destro, Mauro Icardi, 2-1, collasso di Icardi. Attenzione alla ripartenza del Parma, velocissimo Sansone in area di rigore, Sansone davanti a Buffon, 1-1, il pareggio di Sansone, dopo l'Inter colpisce anche la Juve. Noi non ci nascondiamo mai, noi cerchiamo sempre di vincere, ma vedendo Lazio di primo tempo non merita neanche questa classifica. Secondo tempo abbiamo migliorato tutto quanto e abbiamo dimostrato che c'è tanta margine di miglioramento. Ma io credo che quest'anno sia la Juventus e la Lazio e noi facciamo qualcosa di straordinario. Se andiamo a vedere la media punti degli anni passati, la Juventus stava, se non aveva qualche battuta d'arresto, avrebbe avuto una media pazzesca. E dunque la Juventus sarebbe cicala e io non ci credo poi tanto che cicale mica. Dicevo prima che l'azzurro di questo gennaio è quello delle maglie del Napoli e della Lazio, ma c'è anche il bianco crociato del miglior Parma dopo quello di Prandelli, quindi dell'ultimo decennio, battuti l'Inter, la Roma. Mai perso in casa ed è l'unica squadra della nostra Serie A e ieri ha incastrato la Juventus. Saluto e ringrazio Pietro Leonardi, direttore sportivo e architetto di questo Parma. Buongiorno. Buonasera a voi e grazie dei complimenti. Eh beh, sono doverosi, no? Perché tutti dicevano via Giovinco e il Parma si scioglie, invece no, ha costruito un Parma più forte di quello dell'anno scorso. Altrettanto doveroso ringraziarvi. Io credo che la Juve, non credo a una Juve cicala, però le dico, credo che nonostante la grande partita del Parma di ieri, la Juve si stia dosando e stia preparando, stia centellinando il suo giocatore più forte Vucinic, stia pensando alla Champions League, e il parallelo che mi viene in mente è quello che svilupperò dopo con Indurain quando controllava gli avversari al Giro d'Italia. Ma non è semplice, io per le esperienze che ho avuto, e l'avevo detto pure in tempi non sospetti, non è semplice assolutamente mantenere quello standard di qualità e di fisicità per un campionato intero, avendo la competizione anche della Champions. Io mi ricordo che l'unica stagione dei quattro che sono stato direttore dell'Udinese, che abbiamo rischiato di retrocedere, è stata proprio quando andavamo avanti per bene a fare delle belle prestazioni in Champions League. Ricordo. La Champions toglie molto, magari in questo momento non c'è, però ha già tolto a livello di dispendio psicologico, di energie, in tutti i sensi. Senta, lei che lo conosce molto bene, come ha visto Giovinco in questa prima metà di stagione? La mia sensazione è che quella maglia sia molto pesante. Sì, però obiettivamente da Giovinco c'è, diciamo così, una voglia di aspettarsi chissà che cosa, e invece per altri gli basta molto poco per andare all'attenzione, no? Ho detto anche in un quotidiano prima della partita, avevo sentito un commento che diceva che nella partita di Coppa Italia aveva fatto gol e poi aveva quasi fatto un altro gol su punizione, dice però questo è il primo gol che Giovinco fa su punizione, e se non le tira, io ho risposto, è dura che faccia gol, perché c'è un altro che fa gol, che è Pirlo. E allora questo è per far notare come a volte su alcuni giocatori, pur che fa un gol strepitoso su punizione, si deve trovare sempre qualche cosa di negativo. Io penso che a Giovinco non gli fanno passare nulla, e invece Giovinco dimostrerà la grande qualità e la grande potenzialità che ha. Senta Leonardo, intanto voi avete la forza di Sansone. Questa è una bella forza, c'ha un bel nome. C'ha un bel nome, sì. Il prossimo che compriamo è Ercole, e così abbiamo. Abbiamo completato. No, ma comunque penso sia una delle tante sorprese della stagione. Cosa la rende più soddisfatto di questo Parma? Ma la più grande soddisfazione, come me la danno tutti i ragazzi sicuramente, ma la cosa che ci sta ripagando è che ci siamo e c'eravamo imposti con Doradoni di essere più propositivi possibili, di intercambiare dei calciatori, dei moduli, di creare la giusta competitività, e penso che su questo il Parma sta facendo, diciamo, la base portante per ora e per il futuro. Galliani dice che sarà un mercato senza lampi, lei? Penso di sì, perché per fare i lampi o pochi d'artificio c'è bisogno di risorse economiche, e ne vedo ben poche. Voi cosa farete? Ma noi dobbiamo far ben poco, perché obiettivamente i ragazzi stanno rispondendo alla grande per quello che è il nostro obiettivo prioritario. Che non mi dica più la salvezza. Ma questo qui è gran parte del merito che non si dice dei ragazzi e dell'allenatore. Dobbiamo raggiungerla però al più presto, perché prima la raggiungiamo e prima possiamo dire di scalare altre posizioni. Però proprio per questo motivo, che abbiamo 30 punti e ne siamo stracontenti, l'uniche operazioni da poter pensare sono quelle di mandare a giocare, per non far impoverire il patrimonio di alcuni calciatori che giocano poco. Senti, un'ultima cosa, Chirardi oggi ha detto che Donadoni resta almeno un altro anno, conferma? Ma io mi auguro che Donadoni resti per tutta la durata del contratto, sì. Non è un mistero che io mi trovo in una maniera eccezionale sotto tutti i punti di vista con Donadoni, e quando c'è questa sinergia, c'è questo feeling, non è anche un caso che vengano fuori dei risultati. Io mi auguro che questo sia possibile, percorribile, e perciò parto da questo con la speranza. Poi capisco che nel calcio, che quando arrivano magari delle richieste di club importantissimi, è una legge naturale, sì. Però io mi auguro che questo diciamo così matrimonio continui, e continui a lungo. Oggi verrà rieletto Abete alla presidenza della Federcalcio. Quando avremo un presidente di Lega? Bisognerebbe chiederlo a chi? A qualcuno che dovrebbe usare un pochino più di buonsenso. Io non è un mistero che dico che abbiamo perso una grande occasione per dare un messaggio diverso, però purtroppo dobbiamo prendere atto che non c'è in questo momento una compattezza sulla scelta del nome. Io mi auguro che nel più breve tempo possibile i presidenti dei club trovino una soluzione, ma soprattutto trovino una soluzione per il bene della Lega. Sì, si riferisce a Lotito, ma non lo dice. Ma io non ho nessun timore, io mi auguro che si cambi, però, perché di fatto non è che stiamo funzionando granché bene. Eh no, grazie, grazie, buon lavoro e complimenti. La ringrazio a voi. Grazie. Pietro Leonardi, direttore sportivo del Parma. Come l'ha presa mia moglie, continua quando mi vede arrabbiato, continua a dirmi agghiacciante, agghiacciante, quindi . Tutti convocati. Io cercavo di attirare la sua attenzione, ma ero un bimbo goffo e non sapevo come. E poi c'era un tipo che si chiamava Sansone di cognome, che aveva gli occhi verdi e giocava da dio a pallone. Aveva gli occhi verdi e la pelle scura. In qualche modo Eugenio Finardi l'aveva già capito. C'era un Sansone emergente nel calcio. Ragazzi, sveglia, tocca a voi, perché io sono qui principalmente per parlare con voi, per convocarvi, per sentirvi su tutti gli argomenti di sport. 800 24 00 24 è il vostro numero verde, messaggi 349 238 6666. Francesco da Napoli. Sì, buonasera. Io volevo dire, sono rimasto colpito dalla partita che ho visto ieri, una Juve irriconoscibile davvero. Credo proprio che si sia vista quello che poi di cui tutti si parla in televisione, cioè la mancanza di un top player. Perché credo che se ieri ci fosse stato un giocatore che come Trezeguet era in passato, comunque un giocatore come poteva essere Inzaghi gli anni che è stata la Juve, oppure gli anni che è stata al Milan, cioè che semmai non si vede per tutta la partita e poi alla fine segna, io credo che la Juve ieri la partita riusciva a portarla a casa. Sì, il top player secondo me la Juventus ce l'ha, comunque un giocatore che gli si avvicina molto, però in panchina entra all'occorrenza, si chiama Mirko Vucinic, ha problemi al tendine e viene centellinato, quindi si cerca di farlo guarire in corsa. Senza Vucinic a pieno servizio la Juventus è un'altra cosa, perché è l'unico che ha quella scintilla in attacco. Si fa riferimento anche ai tanti tiri in porta che servono per fare un gol. Io semplicemente credo che la Juventus, non credo a una Juventus cicala, ma credo a una Juventus che stia programmando il futuro, magari che abbia fatto il pieno di benzina, che abbia caricato molto nella pausa natalizia. Credo ad una Juventus che stia controllando la concorrenza. Paola, buongiorno. Salve Carlo, grazie mille. Grazie a lei. Io sono una tifosa della Sampdoria, ovviamente, come puoi immaginare, contentissima. Eh sì. Ecco, spero anche bene per il Genoa, perché comunque sia la squadra concittadina, quindi io... Ma non come? Sono... Come spera bene per il Genoa? No, spero bene anche per il Genoa, perché se vanno entrambe in buona classifica la mia città è contenta, quindi io sono contenta. Sì. Io bravissimo. Sono contenta quando vedo che c'è la gioia, cioè mi piace proprio l'entusiasmo per il calcio per bene, cioè proprio sono... Una contenta per quello, mi fa piacere quando sento gli amici che sono comunque contenti, quando rivedo Musoni, in fondo poi abbiamo tanti problemi, se il calcio ci brava, dà un sorriso, brava, brava, è quello che penso anch'io, è quello che penso anch'io, senza stare lì. Comunque io sono contro il B, Serie B contro la Serie C, quindi spero, mi auguro che vadano comunque, che siano i tifosi, proprio per i tifosi, più contenti possibili. Massimo, bisogna sdrammatizzare, bisogna divertirsi con il pallone, Paola. Assolutamente sì, visto che l'ambiente, diciamo, in generale della vita non è positivo, il calcio se ti regala un sorriso, una chiacchiera, anche una così uno scambio di parere corretto, penso che sia. In quanto riguardo al mio allenatore, che io sono contentissima, credo che però le squadre un attimino che devono molto risalire abbiano bisogno di una presenza con più esperienza, perché secondo me è molto importante nello spogliatoio avere un po' un papà allenatore della squadra. Mi sembra che Delio Rossi lo sia, no? Ma lui io penso che sia innanzitutto un uomo fantastico e un allenatore fantastico. Penso che entrambe le due cose debbano camminare a fianco. Sì, e io sono proprio contentissima. Se c'è un allenatore con esperienza di ogni situazione, che ha navigato... Che però ha navigato credo mille che mari. Così, molto, che devono molto camminare rispetto alle solite che sappiamo, no? Però queste squadre hanno bisogno proprio di allenatori con più esperienza rispetto a, niente per dire, però un pochino con meno esperienza penso che siano meglio quelli un pochino più con esperienza. E adesso è arrivato un grande navigatore del calcio, certo. Paola, che ha detto: questa squadra mi sta seguendo, e si vede, nelle ultime due partite. Certo. Sa anche lei meglio di me cosa ha fatto la Sampdoria. Grazie Paola, un abbraccio. Grazie a voi, vi ringrazio tutti. Grazie. Il nuovo che avanza è ufficiale, Giancarlo Abete confermato presidente federale. Mamma mia, le grandi novità, questi amministratori dello sport che non mollano proprio mai. Stefano da Milano, poi voglio cominciare a sentire la hit parade delle voci domenicali, perché è divertente. Stefano, buongiorno. Sì, ciao Carlo. Ciao. Senti, io sono un tifoso della Juventus. Una cosa che ho notato nelle ultime due domeniche, senza montare dei grossi casi, che i favori che vengono dati alla Lazio a livello mediatico non ne viene parlato. Solo questo volevo chiedere, perché quando la Juve fa una piccola cosa ne parlano per almeno una settimana. Ti ringrazio, complimenti per la trasmissione. Grazie a te Stefano. Conte non ha perso però l'occasione dicendo: è giusto non dare enfasi al tocco di mano di Floccheri, perché in futuro accada lo stesso con noi. Vogliamo avere il diritto di lamentarci. Io penso che quando una squadra sta viaggiando forte la fortuna aiuta, e in questo caso sta aiutando la Lazio, questo è indiscutibile, così come sta nelle ultime, soprattutto ieri, penalizzando la Fiorentina, ma sono episodi che ci stanno da una parte e dall'altra, e Conte in fondo poteva risparmiarsi questa uscita, questa battuta. È chiaro che la Juventus è sorvegliata speciale, ma lo è sempre stata. A proposito di top 3 delle dichiarazioni domenicali, partiamo dal terzo gradino del podio, su cui c'è proprio l'allenatore della Juventus. Diciamo che sul gol io c'ho la mia colpa, perché ho chiamato il velo sulla palla per Vucinic, ho chiamato l'ascia, Mirko ha lasciato la palla e c'è stato un intercetto da parte di Paletta, che poi è stato bravissimo a mandare subito in verticale, e c'è stato il gol di Sansone. Quindi diciamo che il gol del Parma mi assumo io la responsabilità. Se c'è qualcuno che ci crede, alzi la mano. Insomma, mentre stanno giocando, arriva un pallone, gli dice lascia, e quello sente l'allenatore, lascia la palla. Mi sembra un eccesso di presunzione anche questa assunzione di responsabilità di Antonio Conte. Paolo da Bergamo. Buongiorno a tutti. Dica. Ieri stavo guardando la partita, ovviamente, dell'Atalanta. Sì. E al momento, diciamo, fatale con quel tocco di mano, ora noi al bar eravamo in 30, abbiamo creato tutti i 30 mano. Ora, a vedere anche l'azione, ma anche senza rallenti, cioè, a me sembra un tocco così evidente, con l'arbitro di linea che è a 5 metri, l'arbitro che è dietro. Cioè, sinceramente a volte non riesco a capacitarmi di come certe cose possono essere interpretate. Anche perché lo stesso arbitro, mi pare che l'anno scorso, durante Atalanta e Fiorentina, per un fallo simile decretò un calcio di rigore. Sì, no, ma diciamo che la Lazio è stata fortunata, che è fortunata in questo momento. Poi arriverà anche il momento in cui Lotito si lamenterà. A proposito, una delle notizie peggiori del momento è che Lotito si candiderà per le elezioni, quindi anche su di lui scenderà la par condicio. Io sono francamente disperato. Secondo gradino del podio c'è Marchisio. Cari napoletani, mi chiedono il cuore per tutto sto burdello che è successo. Ma io non volevo far più accollare a nessuno, è solo pallone. State per buoni. Era lui, non era Totò, era Claudio Marchisio che chiedeva scusa in napoletano. Scuse non necessarie, secondo me, visto l'esagerato casino che si è montato intorno a questa storiella di, in fondo, di poco conto. Vincenzo Foggia. Sì, buongiorno. Dica. Buongiorno, grazie per avermi chiamato e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Senta, io sono un tifosissimo della Juve, forse un po' meno sportivo, più tifoso. Voglio dire solo che noi abbiamo il nostro top player che è Marchisio, e purtroppo da due giornate non gioca, insomma, si vede. Ma con l'accoppiata Marchisio e Vidal, credo che possiamo vincere tranquillamente il tricolore e credo senza dubbio che arriveremo in finale, almeno in finale della famosa Champions che non ci manca. Quanto ottimismo, Vincenzo, si capisce che lei, certo, che lei è tifoso. Io lì la vedo un po' più brusca invece per quanto riguarda la Juventus. Certamente sta pensando al Celtic, ostacolo superabile, da lì in poi insomma, mi pare difficile. Da lì in poi sarebbe tutto in più rispetto a quello che era lecito aspettarsi. Io sono contenta quando vedo che c'è la gioia, cioè mi piace proprio l'entusiasmo per il calcio per bene, cioè proprio sono una contenta per quello, mi fa piacere quando sento gli amici che sono comunque contenti, quando rivedo Musoni, in fondo poi abbiamo tanti problemi, se il calcio ti dà un sorriso, penso che sia una cosa positivissima. Tutti convocati. Questo è il vostro libero spazio sportivo, dunque io sono qui solo o principalmente per sentire la vostra voce. 800 24 00 24, come sapete ogni lunedì facciamo il podio delle migliori dichiarazioni della domenica, ma c'è anche la novità di questo gennaio, da gennaio in avanti, Tutti convocati magazine al sabato, dove il podio lo comporranno invece i migliori ascoltatori settimanali. Dunque, prima di Francesco da Firenze, ha indovinato Franco da Milano su chi va sul primo gradino del podio e su cosa. Sentiamo. Io ho parlato col giocatore e credo ai giocatori, poi alla fine lo dicono e ha detto che non è stato un fallo volontario. Sì, l'ha detto anche in diretta, quindi questo lo... No, ma io lo dico proprio, guardi, lo che Floccari è una persona, certo, molto religiosa. Sì, lo sappiamo, sì, che no, ma va a Međugorje, va in chiesa, vive proprio una vita... È molto corretto. Monastica, proprio di rispetto delle regole, creda. Mi avrebbe detto, guardi, come ha fatto Marchetti, ha detto, guardi, l'ho toccato la mano e ha mandato già che non era calcio d'angolo. No, ma siamo d'accordo, Presidente, anche io che non sono andato a Međugorje, ma comunque sono credente, credo che veramente... No, ma Međugorje oggi anche lei, perché che è peccatore, tutti siamo peccatori. No, ma io andrò, però chiaramente... Allora, questa già anch'io sono a Međugorje, ha detto con tono... Non sono ancora andato, nel senso che ci andrò, e chiaramente ho visto anch'io l'involontarietà. Io pure, il sistema calcistico deve andare in pellegrinaggio a purificare. Anche Riccardo Ferri a Međugorje, tutti insieme facciamo il pullman. Ragazzi, sono disperato perché la par condicio calerà su Lotito e io non so più cosa succederà in questa top 3 delle dichiarazioni del lunedì. Sono in lutto. Francesco, Firenze. Eccomi. Sì, buonasera. Buonasera. E mi riferisco alla sua valutazione della partita della Lazio. Ieri lei ha detto che la Lazio è molto fortunata, no? Giusto? Ecco, io vorrei però un'altra valutazione anche sul fatto che la Fiorentina ieri ha subito due gol in fuorigioco. Allora la Fiorentina è sfortunata? Vorrei un suo giudizio su questo. Sul secondo gol in fuorigioco potremmo discutere, però molto sfigata la Fiorentina. Sì, ma non c'è dubbio, quando il vento gira al contrario capitano queste cose, Francesco, perché è così. In questo momento la Lazio è forte e fortunata, la Fiorentina è in calo di condizione, sta cercando i gol di Jovetic, della sua stella, che non arrivano. E subisce anche questo tipo di episodi, che sono grosso modo normali nel calcio, sono momenti in cui ti gira bene, quindi hai il fischio favorevole, trovi il gol magari immeritato, magari bizzarro, vinci le partite che dovresti pareggiare, eccetera eccetera. Secondo me fa tutto parte di questo meraviglioso non senso che è il calcio. Io saluto e ringrazio invece Cristiano Gatti, penna importante del giornale. Ciao Cristiano. Buongiorno, ciao Carlo, buongiorno a tutti. No, condivido con te la disperazione per la par condicio che ci priverà di Lotito, che si candida per le elezioni. Dovremmo farsene una ragione. Sarà dura, ragione. Io non me la faccio, non ce la faccio. Io ti ho chiamato perché profondo conoscitore del ciclismo, volevo fare con te questo parallelo che condivido con gli ascoltatori 800240024. A me la Juventus ricorda Miguelon Indurain quando veniva a vincere i Giri d'Italia, cioè controlla la corsa e gli avversari, lascia andare le fughe che deve lasciare andare, intanto recupera, intanto lavora, intanto tiene le ruote. Io sinceramente un'avversaria a quella che oggi chiamano la cicala non la vedo. Intanto complimenti perché sei un buon gustaio, perché uno che si rifà all'estetica di Indurain vuol dire che è un buon gustaio del grande sport, del grande ciclismo. Indurain da qualcuno era tacciato ad essere poco spettacolare, in realtà è stato un campione totale che oltre ad usare queste gambe, questo fisico che indubbiamente aveva, usava benissimo la testa. E qui mi riallaccio quello alla tua teoria che mi sembra molto curiosa e comunque ed è molto pertinente. Indurain non sprecava una sola goccia di energia inutilmente, non concedeva nulla al cosiddetto spettacolo, al ciclismo champagne, ma badava soprattutto lucidamente, cinicamente in qualsiasi momento della corsa al risultato. Non a caso ha vinto 5 Tour de France in fila ed è venuto quando gli è piaciuto anche a vincere il Giro d'Italia. Ricordo un Giro d'Italia che ha vinto, adesso non potrei confondere l'anno 93-94, con Chiappucci, grande avversario. Ricordo almeno 200, 300, 500 scatti di Chiappucci che infiammavano le folle italiane, noi tutti compresi, però inesorabilmente tutti quegli scatti furono concessi dal despota, sì. E poi inesorabilmente annullati con una facilità, con una freddezza che annichilì insomma il suo avversario. Ma quindi ci sta o no il parallelo con la Juventus, che secondo me sta controllando la concorrenza come faceva Indurain? Guarda, io non sono juventino, quindi non lo dico perché ci spero, però la sensazione è quella. Da che mondo è mondo, tutte le squadre che hanno tenuto per un lungo tempo il primato ogni tanto si concedono un periodo di rifiato, di pausa, è inevitabile, insomma tutti nella vita non possiamo pensare di essere sempre a 100 all'ora, ci sono dei momenti in cui ci accorgiamo che ci possiamo anche, come dicono adesso, gestire. La sensazione è che la Juve adesso si stia un po' gestendo. È ovvio che non possiamo nasconderci che troppi rilassamenti rischiano poi di diventare deleteri, perché se si perde poi l'abitudine all'aggressività, all'intensità, che sono poi le doti care agli allenatori come Conte, può diventare rischioso. Una squadra che si imborghesisce troppo, come la Juve, che non basa da sempre le sue vittorie sulla grande tecnica, sul fraseggio, ma soprattutto sul temperamento, ha bisogno di essere sempre sulla corda. Ha bisogno di questo fuoco. Senti, ti è simpatico Zeman, Cri? A me sì, lo dico sinceramente, perché non tanto perché abbia nulla di personale, ma perché per il solito motivo, sarò molto banale, perché mi piace sentire le persone che hanno qualcosa da dire. Non sempre sono d'accordo con lui, ovviamente, ma questo è il bello. Però a me piace sentire le persone che comunque hanno un'idea. Questo anche a me, tu lo sai, però la Roma meno 10 dalla Lazio è una specie di fallimento. Come, scusami? Sono d'accordo con te sulla necessità di personaggi, però la Roma meno 10 dalla Lazio è una specie di fallimento. Indubbiamente, su questo nessuno può dire che Zeman sia un vincente, un dominatore. Zeman anche quest'anno sta un po' tradendo i suoi limiti, che sono quelli insomma di non avere la regolarità, la costanza e soprattutto la pesantezza della squadra che mantiene sempre la sua regolarità, la sua personalità. È una costante delle sue squadre, però devo anche dire che è anche l'allenatore che prima di tutto fa divertire, vabbè questo lo è risaputo, fa letteratura. Un altro dei suoi pregi è che soprattutto lancia tanti giovani. Sì, questo senz'altro. Anche questo è un aspetto che piace, sono tutti capaci di fare i grandi risultati con i grandi squadroni, con i grandi nomi. A me Zeman piace perché comunque non ha problemi, non ha pudori a lasciar fuori un campione bolso per un giovane. Sì, sinceramente De Rossi, che ieri è stato sbattuto di nuovo in panchina, non mi sembra un campione bolso, ma mi sembra più che altro una questione personale. Ma infatti, scusa, non vorrei che il riferimento fosse a De Rossi, che è un giocatore che a me piace tantissimo. Io parlavo in generale. È chiaro che con De Rossi c'è qualcos'altro che noi bene non percepiamo fuori. Ma è chiaro che non è un matrimonio riuscito, tant'è vero che secondo me la soluzione sarebbe proprio quella di romperlo questo matrimonio, nel senso che o se ne va Zeman o più facilmente forse se ne va De Rossi, a parte che io poi sono dell'idea che ai De Rossi, così come ai Totti all'epoca, andarsene fuori Roma secondo me può non portare non sarebbe un gran male. Fargli fare un altro salto di qualità, l'ultimo che manca, cioè renderli giocatori, perché le qualità le hanno tutte, sono grandissimi campioni. Secondo me è un limite, è una gabbia restare tutta la vita a Roma. Sono d'accordo. Ovviamente comporta loro dei bellissimi vantaggi, perché io so cosa significa stare a Roma e farei subito cambio. Però al di là di quello, perché siano campioni totali a livello internazionale, devono anche andare, da pallone d'oro, devono andare a consacrarsi da un'altra parte. Sì, sarebbe salutare per loro anche cambiare un po' aria. Sì. Cristiano, ci sentiamo dopo la notte del 18, quando Armstrong avrà raccontato la sua verità. E chissà se trascina nel fango qualche verità in più. Chissà se trascina nel fango qualcun altro. Sì, oramai guarda, è un gioco al massacro, ma sembra che non abbia mai fine questa storia. Però il battage americano sapientemente ha fatto caricare la sveglia a tante persone in giro per il mondo. Sì. E speriamo finalmente di poter avere qualche certezza in più. Grazie Cristiano. Buon Grazie lavoro, a Cristiano Gatti, inviato del Giornale. Le è mai venuto il dubbio che le sue idee di calcio ad altissimi livelli siano un po' superate? Tutti convocati. Sveglia ragazzi, siamo qui per sentire le vostre voci sullo sport in generale, su tutto lo sport, non solo sul calcio, perché noi buttiamo lì delle idee, ma questa trasmissione è per voi. 800 24 00 24, altrimenti non vi convocherai con così tanta insistenza. Prima degli ascoltatori c'è un altro appuntamento fisso del lunedì: il gol più bello, quello da Oscar. And the Oscar goes to Hiller. Riceve Damsic, Hiller si accentra, attenzione, un buon tiratore anche con il sinistro, Hiller, un gol fantastico, 2-0 Napoli al 34esimo, il raddoppio dello svizzero. Noi guardiamo solo per noi, oggi è stata una prestazione molto importante per noi, perché i primi 20 minuti non eravamo in campo, ma poi dopo il 2-0 abbiamo giocato meglio. Tu sei bravo, ma che bravo. Sei bravo, no. Sei molto, molto bravo. Tu hai un dono? No. Te lo dico io, tu hai un dono. Allora, vi leggo questo messaggio. Sono un prete e dico che il tocco di Flocker e soprattutto le sue dichiarazioni da uomo partita Sky alla fine della gara hanno ben poco di monastico. Al suo presidente, presto silenziato dalla par condicio, mi permetto monasticamente di ricordare una legge spalma debiti creata ad hoc per la sua squadra, legge per la quale nemmeno un pellegrinaggio a Međugorje a piedi basterebbe per manifestare riconoscenza. Don Luca, Bergamo. Adrian, Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Carlo. Buongiorno. Sono tifoso juventino, volevo dare la mia versione. Sì. Qual è? Perché sentivo l'altro juventino che diceva su Marchisio che manca alla Juve. È vero che Marchisio manca, ma secondo me è Chiellini che si sente, la mancanza di Chiellini. È un vero leader secondo me della Juventus. Secondo me si sente la mancanza di diversi giocatori che ci sono o che sono fuori o che ci sono ma sono fuori condizione. Io continuo a pensare che quello che fa la differenza, si è letto prima dei numeri, 7 tiri per un gol eccetera eccetera, quello che fa la differenza è Vucinic, che sta in panchina con un tendine in fiamme, si cerca di rimetterlo in condizione in corsa, pensando alla sfida con il Celtic, che io sono certo la Juventus ha già ben chiara nella testa. Intanto la Juventus andrà piano, però tiene la concorrenza a distanza. Doveva vincere la partita di Coppa Italia con il Milan, ha centrato anche quel risultato. Dunque non vedo una Juventus in tutta questa crisi. Franco Varese. Sì, ciao. Ciao Franco. Volevo parlare un po' di basket, in particolar modo delle Final Eight di Coppa Italia, che ieri hanno definito pressoché completamente il tabellone. Con il brividone di Milano, eh? Esatto. A proposito, una polemica, non trovo giusto che Brindisi e Milano giochino a risultati altrui acquisiti, potendo scegliere l'avversario, primo. Sì. Seconda cosa, sta girando Milano, Milano più che altro aveva poco da scegliere, o c'era o non c'era, quindi... Certo, però la tripla allo scadere ha definito un attimino il tabellone, sospetto di scelte, cioè, comunque sarà Milano-Varese, sarà Milano-Varese. Esatto, io sono tifoso di Varese, non sono contentissimo, però va benissimo così. La seconda cosa, gira voce che per la prima giornata, dove ci sarà Milano Varese e Cantù Roma, ci siano delle limitazioni ai tifosi di Varese e Cantù, o addirittura a porte chiuse. Io mi auguro chiuse, di no, sarebbe... porte chiuse lo escludo in una maniera più categorica. Limitazioni che possono arrivare dall'osservatorio può essere, ma non le credo plausibili in questo contesto, e comunque sarebbe una specie di sconfitta, no? Perché comunque saranno partite che meritano di essere viste da parte di tutti quanti con la necessaria civiltà, Franco. Grazie. Nicolò Modena. Salve. Salve. Volevo parlare un po' del fondo della classifica. Io sono un tifoso del Palermo e sono tristissimo quest'anno. Ho visto la prima di campionato con il Napoli e mi ero già prefissato il campionato che stiamo facendo. Vedendo la prima di ritorno, nonostante tutta la buona volontà di Gasperini, la vedo malissimo quest'anno, purtroppo. Sì, la vedo maluccio anch'io. Io Palermo e Genoa non riesco a vederle così decollare. Mi sembrano, ho già usato questa espressione, squadre che fanno il volo del tacchino, cioè sbattono le ali ma non si alzano da terra. Adesso Gasperini ha chiesto rinforzi, magari non sarà più tra poco l'allenatore del Palermo, perché leggo anche di altri sondaggi in giro, quindi potrebbe esserci un nuovo cambio di panchina. Il Palermo mi sembra una squadra insieme al Genoa in grande difficoltà, quindi posso condividere la sua preoccupazione. Non so chi possa arrivare a gennaio, ma posso condividere la sua preoccupazione, perché mi sembra una squadra mal assortita questo Palermo, e che non ha neanche, al contrario della Lazio, il favore della fortuna, perché quando le cose van male nel calcio van male tutte insieme. Franco da Bergamo. Pronto? Pronto. Buongiorno, senta, buongiorno. Volevo porle, diciamo, due quesiti, due e mezzo. Volevo chiedere cosa ne pensa sul fatto che la Juve nelle ultime due partite ha beccato 3 gol su due passaggi degli avversari, praticamente con la difesa prontamente scoperta, a prescindere dall'errore di Buffon. Sì. Seconda cosa, che è un difetto da mettere a posto, è evidente. No, perché 3 passaggi, andare in porta è il massimo del calcio. Sì, sì, sì, sì, quello è un difetto che ho notato anch'io, ed è un difetto su cui Conte dovrà lavorare, perché è reale. Reale. La seconda domanda, ma il tabellone della Champions League attualmente che ho visto pubblicato rimane fisso, oppure dopo i quarti vengono rieffettuati i sorteggi? Vengono rieffettuati i sorteggi. Dopo i quarti vengono rieffettuati i sorteggi. Vengono rieffettuati, perché appunto il tabellone perché io l'ho visto pubblicato su un sito ed era già con le componenti per i quarti, semifinali, e la Juve era in una parte molto collocata molto bene, mentre ai quarti vengono rieffettuati i sorteggi. Tanto, allora, tanto quella che conta è la partita di Glasgow, e quella sarà molto complicata per la Juventus, e io credo che Conte ci stia già pensando, che tutto l'ambiente juventino ci stia già pensando. Dunque, prima di andare avanti con gli ascoltatori, di chiudere con gli ascoltatori, altro sport attraverso le voci di basket, voci di sci, voci di un uomo che oggi abbiamo salutato. Credo che siamo stati bravi a recuperare una partita che, dopo aver dominato nel primo tempo, si era complicata nel terzo quarto. La squadra sta migliorando, adesso credo che l'abbiamo finalmente, anche se non per i 40 minuti, dimostrato anche in una partita difficile contro un avversario forte. Adesso bisogna continuare a crescere, perché abbiamo sicuramente margine di miglioramento nella continuità, direi, soprattutto di rendimento nell'arco dei 40 minuti. È un podio fantastico e molto importante per me, diciamo, dopo il gran risultato di ieri in Gigante, anche oggi un altro risultato importante, il podio, e sono soddisfatto. Chiaramente ero primo la prima manche, ho provato veramente ad andare a vincere, però Hirscher ha fatto qualcosa di straordinario e io da metà in giù non sono più riuscito a spingere come volevo, ma sono contento. Eravamo una famiglia, lui rideva poco, però sapeva con chi aveva da fare, aveva dei ragazzi fidati, ecco, che lavoravano per lui, e noi ci lavorava volentieri, perché lui era un capitano che vinceva, e quello che guadagnava, diciamo, nelle corse, poi lui aveva le riunioni, però divideva tutto, noi, divideva, lasciava a noi e ai meccanici, ecco. Dunque, avete sentito Sergio Scariola, allenatore dell'Armani, che si è qualificato per un pelo alle Final Eight che Milano giocherà in casa. Avete sentito Mölg, intervistato da Dario Ricci, che era arrivato terzo in uno slalom che aveva dominato per quanto riguarda la prima manche. Avete sentito Carrea, intervistato da Dario Ceccarelli, l'ultimo gregario di Fausto Coppi, che è scomparso proprio ieri. Siamo in chiusura, mi spiace per Massimo Davarese, non riusciamo a parlare, ma domani ci proviamo, se ha tempo e voglia, primo in classifica domani tra gli ascoltatori. Saluto Franco Piantanini, autore di questo programma, Fabio Cantadone Reggi, e naturalmente tutti voi. Ciao, a domani.